Cominciamo questo nostro dialogo in attesa della conferenza stampa del Bologna Children's Book Fair parlando del progetto Boom curato da Amelin. Intanto siamo con Ilaria Tontardini. Di che si tratta? Allora, Boom è una raccolta di eventi che si svolgono nella città di Bologna ormai da 3 edizioni in occasione di Bologna Children's Book Fair. Quest'anno è un'occasione molto particolare perché mentre la Fiera del Libro di Bologna avrà un'edizione online, la città di Bologna, Amelin, insieme a Bologna Biblioteche, ha deciso di mantenere un evento in presenza, pensando soprattutto all'idea che la città potesse aver un gran bisogno di attività per i bambini e le bambine che sono stati chiusi tutti l'inverno e non solo dentro casa, e quindi con una forte volontà abbiamo costruito un'edizione di Boom quasi interamente all'aperto di eventi in città legati al libro per l'infanzia, all'illustrazione e ai bambini e alle bambine, che nell'arco di un mese, interamente per il mese di giugno, animerà gli spazi, i molti spazi della città coinvolti. Alcuni spazi, allora, dicevo prima, l'idea è stare fuori, quindi le biblioteche di Bologna hanno messo a disposizione tutti gli spazi all'aperto che avevano, il comune stesso con il cortile del Pozzo sarà presente, e poi altri spazi che vanno da piccoli giardini, i giardini bolognesi, Serre, Montagnola, il giardino del Guasto che è nodale rispetto alle attività con i bambini, ma anche Cavaticcio e Mambo e tutta una serie di progetti che, diciamo, pur essendo ospitati da delle istituzioni, vedono estroflessa la loro esistenza. Mi viene da citare, appunto, perché uno delle linee principali del progetto, la linea della poesia, e il progetto di Marion Bataille che sarà dentro Casa Carducci in occasione del centenario, quindi un'illustratrice che rilegge lo spazio di Casa Carducci, ma che al tempo stesso vedrà tutti i laboratori in esterno sulla piazza. Laboratori, quindi, oltre alle importanti letture, alla poesia, anche una maniera interattiva in presenza di tenere insieme. Assolutamente sì, laboratori per bambini e bambine, letture, visite guidate agli spazi, agli esterni, incontri, quindi incontri anche per i genitori dei bambini e le bambine che partecipano a Boom, tutto su prenotazione, ovviamente con le regole che dobbiamo tutti seguire, ma l'idea era proprio quella di far fare, far leggere e rimettere i bambini e le bambine al centro di questa stagione. Si comincia con il primo appuntamento il 3 giugno e si concluderà proprio a fine mese. Io ti ringrazio tantissimo e buona stagione. Grazie mille, altrettanto.